Wall Street, I viaggi del lupo. Ci siamo, eccoci in diretta qui su Radio Lupo Solitario. Potete ascoltarci dal sito www.radiolupo.it o seguirci dalla pagina Facebook. Siamo in diretta, questo è Wolf Trips con me, Domenico Biancardi, e questa sera affronteremo il viaggio nella Big Beat, passando dal 1994 fino ad arrivare ai giorni nostri, circa 2015, e ascoltando i maggiori produttori di Big Beat, ossia Fatboy Slim, Chemical Brother e Prodigy. Partiamo proprio da loro, e questa è Dear Law del 1994, estratta dal loro album Music for Jilted Generation. Partiamo subito con la quinta. Questo è un brano che unisce il drum della Big Beat, chitarre pesantissime dei brani rock, voci distorte anche molto ripetitive, ma creano comunque un brano veramente molto molto carico. E dai Prodigy passiamo subito ai Chemical Brother con il brano In the Dust We Trust, nella polvere ci testiamo. E questo è un brano che ha una parte di pop e una parte rave. Hey, questo è Wolf Trips. Siamo in viaggio sulle tracce della Big Beat e di quello che ormai è rimasto. E passiamo quindi dall'anno 1995 con il brano che abbiamo appena ascoltato e fino all'anno 1997 con un brano che è un super classico della musica elettronica in generale, musica elettronica o musica rave. Il brano è The Prodigy ed è Smash My Bitch Up, estratto dall'album The Fat of the Land. Tradotto letteralmente è Il grasso della terra. Oh.

questo è Wolf Trips, sono le 20:27 e questo era Fatboy Slim con The Rockefeller Skunk, uno dei brani che l'ha consacrato come DJ mondiale. Un pezzo che mischia il funky, le chitarre londinesi che ricordano quasi i The Kinks e il suono big beat. È stato un brano anche scelto per molti videogiochi, magari qualcuno di voi si ricorda FIFA 1999. Passiamo di nuovo ai Chemical Brothers, andando nell'anno 2000 con A Boy, A Girl. Superstar DJs, here we go! I viaggi del lupo. Questa sera attraversiamo la storia della Big Beat e passiamo ora dall'anno 1999 col brano dei Chemical Brothers estratto dall'album Surrender e Boy and Girl al brano invece dei Fatboy Slim Drop Date. Volevo solo ricordare un attimo il video di questo A Boy and Girl, che è molto particolare, è da vedere, dove si vede una ragazza che entra nel club e vede attorno a sé scheletri di persone che ballano al ritmo della musica. Sinceramente non l'ho mai capito come video, ma è molto particolare. Questo invece è Fatboy Slim con Drop the Eight. Tonight, we not only speak to the members of the Greater Jerusalem Baptist Church, we not only speak to Baptist people tonight, we not only speak to the Methodist people tonight, Church of God, Christ, Catholic, or no particular denomination, no particular city, but tonight we speak to the whole nation. Arriviamo all'anno 2000 con qualcosa di un po' più particolare, un po' più underground. Il suono iniziale è molto psichedelico, ma poi mischia un drum big beat e una voce quasi jazz, presa quasi dal jazz, riconfermando un po' Fatboy Slim come un DJ capace di riprodurre suoni classici in una veste completamente nuova. Passiamo ora all'anno 2001 con un brano dei Prodigy, Hot Ride, di cui ho postato anche sulla pagina ufficiale di Wolf Trips il video, che è molto molto bello. Hot Ride, uno dei miei pezzi preferiti dei Prodigy. Nato dalla collaborazione tra Liam Ovelet e James Webb, che è lo scrittore per cantanti come Ella Fitzgerald e Nancy Sinatra. Il ritmo incessante non ti lascia mai un attimo di respiro. Consiglio di vedere anche il video, come dicevo prima, perché è veramente molto particolare. Ora continuiamo con i Chemical Brothers e Galvanize, che è un brano estratto dall'album Push the Button, e arriviamo al 2005. Era Galvanize The Chemical Brothers, è il primo pezzo estratto dall'album Push the Button, e suona The Chemical Brothers quest'anno nel 2005 cambia faccia, mischiando i drum elettronici e suoni rap con un cantato di Q-Tip. Il suono big beat quindi cambia e si evolve, e l'evoluzione si continua a manifestare con il prossimo pezzo di Fatboy Slim, che è Wonderful Nights. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. house all night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, uh-huh. Your crew was riding for the white cliffs of Dover, uh-huh. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic. The thought is autoerotic, come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it, take it as far as you let it. Come on and break it on down. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Build the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Rock like Colorado, get out of throwing bottles. We give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a Minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Oggi Wolf Trips sta usando la macchina del tempo e siamo arrivati quindi al 2006, dove la big beat si trasforma e subisce le influenze delle mode del momento. Questa era Wonderful Night, che mantiene comunque il drum classico della big beat, però diventa quasi una canzone pop a tutti gli effetti. Negli anni successivi invece i Chemical Brothers cambiano nuovamente il loro punto di vista sulla big beat, e questo che andiamo a ascoltare è Do It Again. Ossessivi, una traccia quasi da discoteca, è un cantato campionato e super effettato. Questi sono gli ingredienti di Do It Again, presa dall'album We Are The Night. Il concetto di big beat viene quasi stravolto e ormai praticamente cambia dal concetto iniziale. Continuiamo sempre con i Chemical Brothers con Keep My Composure. Must keep my composure. Yeah. Chemical Brother nell'album Brotherhood fanno un passo avanti per quanto riguarda la big beat, e in questo caso la traccia mischia elettronica al drum quasi rap. Il cantato è un misto tra il rap e l'elettronica. La traccia mi piace davvero molto, anche a distanza di anni. Cambiamo un po' registro con un brano storico dei Prodigy, Invaders Must Die. anno 2009, questo era The Prodigy in Vedras Must Die, e in questo brano ci si spinge quasi alla drum and bass. Infatti i Prodigy abbandonano quasi del tutto il genere big beat e nel loro album, appunto In Vedras Must Die, introduce moltissimo il genere drum and bass. Forse subiscono un po' il fascino che in quegli anni avevano i Pendulum. Continuiamo il nostro viaggio che si sta quasi volgendo al termine con un brano ancora dei Chemical Brothers, The Devil in the Beats del 2011 i Chemical Brothers hanno scritto la colonna sonora del film Anna, entrata di diritto anche nella top 100 delle migliori colonne sonore dei film. Il brano è un vero mischione di generi, si va dall'elettronica a quasi suoni orientali. E ora concludiamo il nostro viaggio con uno dei brani più belli degli ultimi anni. Questo è Go, sempre dei Chemical Brothers. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your web, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Viaggi del lupo. Il nostro viaggio per questa settimana finisce con questo brano dei Chemical Brothers, Go, che fa un po' capire dove si è andata a evolvere la big beat, perdendo un po' anche quello che era l'anima iniziale, ma comunque avendo sempre dei brani di un certo spessore. Questo era l'ultimo brano per Wolf Trips di questa settimana. Vi ricordo che su Mixcloud, alla pagina Wolf Trips, trovate tutti i podcast, tutte le puntate. E ci sentiremo poi settimana prossima, venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, con una nuova puntata di Wolf Trips e con un nuovo viaggio nella musica underground. Ciao a tutti!